1, 2, 3, l'amour qui vient et va. 4, 5, 6, la vie est une caresse. 1, 2, 3, l'amour qui vient et va. 4, 5, 6, la vie est une caresse. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non portà nessuna pressa a te. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non portà nessuna pressa a te. Invece mo nu frate, na soro nu nipote, solo nu stai na vota, a scimma sempre a tre. E mai promesso domani chi lo sa. Vengo soltanto, soltanto con mamma. Io, mamma te tu, passiamo per tu le noi annanze mamma tarete. Io, mamma te tu, sempre appresso così pazzo che sta bene pure viaggi nozze. E a mucina ma ballà, si cerca a me ci squaglia con manu carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorato, sono rassegnato. Ma innamorato, ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, la da mattina non l'ha fatta Isa. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta Isa. Teneva l'occhio e freva, pareva che schiattava, io quasi mi credevo e asci solo con te. Non file voce però trovai mamma. Caccerella va faccia accompagna. Io sono detto, chiamo barro di Adamona, vuo coppetto, vuo spumone. Che la cacoste chiù. Per ricordare sta giornata, d'inta ville ci hanno fatta foto. Vuo pallone, vuo papà, non si fide cammanà. Guarda esse, guardo mare, sto pensando e ciamanà. Ma sposa nata, tu m'hai inguaiato, ma... Non reagisco più, mamma te, sora te tu, fratate, fratate tu, mamma te, sora te, fratate tu.